ad aumentare i ritmi, a guardare poco i temi che riguardano la sicurezza, la prevenzione, le misure di protezione. Cioè, c'è da lavorare, bisogna fare in fretta, bisogna consegnare il prodotto, e questa è una delle cause. Insieme a questo devo dirle anche che c'è un problema che riguarda il fatto che, di fronte alla preoccupazione, alla paura di perdere il posto di lavoro, molti infortuni non mortali ma qualche volta anche gravi non vengono neanche denunciati. La legge 81, che si occupa del problema della prevenzione, è una legge fatta anche bene ed è una legge, diciamo, che riesce a individuare le modalità per poter evitare il più possibile incidenti. Il problema è che questa legge e queste regole non vengono rispettate. In più c'è stato un aumento del lavoro nero e c'è stato anche ultimamente questa questione del meccanismo dell'appalto, subappalto all'infinito senza controlli, naturalmente crea una situazione nella quale è difficile andare a fare l'indagine. La legge 81, che è appunto la prevenzione dei luoghi di lavoro, vale per tutti, per le grosse, medie e anche piccole imprese. Le piccole imprese spesso non sono raggiunte da controllo, e anche quando vengono raggiunte dal controllo, si fa un controllo e poi si ritorna la prossima volta a vedere se le questioni che mancavano sono state sistemate. Il tempo che ritornano a fare l'altra indagine, spesso succede, in quel frattempo lì succedono incidenti.